Certamente, rispose quello con un pesante accento sicuro. Giuseppe ha telefonato in merito all'avvistamento del quarterone. Cos'hai da dirci in proposito? Smitragliante, come un fucile d'assalto, detonò in studio la pernacchia più spropositata che Milena avesse mai sentito. Sembrava di vedere le gocce di sputo piovere dall'alto parlante, ricorda. Invece di interrompere la chiamata, Spillo la tenne in onda fino alla fine, per almeno 15 secondi, finché Giuseppe non terminò il fiato e riattaccò. Benché situato nella provincia profonda, l'Allo Gallo era noto a livello nazionale, anche grazie alle vendite per corrispondenza. Una sua pagina pubblicitaria appariva sulle riviste di settore con i migliori titoli del mese e il numero di telefono. Tu chiamavi, davi l'indirizzo e Jimmy Fruzzetti ti spediva il catalogo gratis. Quel catalogo lo curava lui, grafica e contenuti. Di ogni nuova uscita, di ogni perla di importazione che arrivava in negozio, Jimmy scriveva una breve recensione, 10 righe o poco più, acute e competenti. C'erano pure la sezione sugli stereo, quella sui libri, qualche illustrazione psichedelica, una 50ina di pagine, con copertina lucida in tricromia. Niente da invidiare a una rivista, e Jimmy ne pubblicava 3 numeri all'anno, che oggi sono pezzi da collezione. Le copie rimaste passano di mano in mano a prezzi vertiginosi. Jimmy, dicevano tutti, era bizzarro, sì, ma preciso ed efficiente come un tedesco. In effetti, aveva vissuto in Germania Ovest. C'era andato 20 anni nel 71, non per lavorare nelle fabbriche di Monaco, Francoforte o Ludwigshafen, ma seguendo il canto di sirene del nuovo rock tedesco, più interessante d'Europa. Di quella scena amava ogni suono, dall'elettronica pungente dei Tangerine Dream, degli Ashna Temple, di Klaus Schulze, al rock più spigoloso dei Can, dei Faust e soprattutto dei Noi, passando per gli album affollati e psichedelici degli Amontillo, che in realtà erano 2 gruppi, Amontillo Est e Amontillo Zweite, che prendevano il nome dalla comune in cui vivevano. Anche Jimmy si era stabilito in una comune a Colonia, poi per lunghi periodi stato in Svizzera al seguito del giornalista e produttore discografico Rolf Ulrich Kaiser, che andava a trovare un proprietario dell'LSD, Timothy Leary. Fu giusto dalla giustizia americana. Il Kaiser, come lo chiamavo, sia per il cognome sia per il modo di fare un po' imperioso. La voce di Jimmy emerge, giusto un poco mattata da un vecchio nastro, ucciso proprio quel sabato all'Allo Gallo. Ferrari di Milena, un Philips ER3301 con la custodia, la tracolla e il microfono esterno. Tenuto con grande cura nel 2018 ancora funzionava. Era già conosciuto anche in Italia perché Mondadori aveva appena tradotto il suo libro Das Buch der Neuen Popmusik col titolo Guida alla musica pop. Con tutto quel che è successo nel frattempo, oggi obsoleto, molte parti suonano fenestri, però è ancora in catalogo, pure qui devolge ogni tanto nella via qualche copia. Germania Kaiser era più famoso per la sua etichetta, la Horn, che poi vuol dire orecchio. Ha fatto uscire album fondamentali, gruppi del calibro di Tangerine Dream, Blood & Cologne, Popol Vuh, io li ho conosciuti. Lili, siamo andati a trovarla in Svizzera un paio di volte, prima che il governo lo sbattesse fuori come da lì. Con lui ci siamo fatti un bel po' di viaggi. Ah, che è da fermi, intendo. Ho fatto l'esperienza psichedelica. Tu l'hai fatta l'esperienza? Are you experienced? Capito, qui le domande le faccio io. In ogni modo, con Lirio ho imparato cose che non solo mi sono servite dopo, ma mi hanno fatto riscoprire certi aspetti della mia cultura d'origine. Nel 74 Jimmy era tornato in paese con una bella disponibilità economica della quale nessuno gli aveva chiesto conto. Nel giro di poco aveva aperto il negozio chiamandolo come il suo pezzo preferito dei noi. Allo Gallo! Sì, sono abbastanza.